casato? Ci sei Antonio? Ci sei alzato? Ci sei alzato? Azzardo, ci sei? Azzardo! Uno, due, tre. Portami quell'apparecchio tuo. Ho detto, portami quell'apparecchietto tuo. Il modico. Non lo so, non lo so, a busto, non qua. Voglio provare il mio telefono, come lo metto? E non metto la moto grossa nella piattina, e sicuro l'antenna che sta ben contatto, l'esiga gliela fa. No, al limite, se non c'è i bulloncini, c'ho due bulloncini io, che è meglio delle zizze. Benissimo. Allora, Gio Maria, Andrea. Sento forte e chiaro, tu mi senti bene, sì? Sì, faccio. Ora, Bacchisi un attimo. Torre, torre, cambio. Andrea, arrivo. Sento forte e chiaro. Dove devi passare? No, perché sì, devo passare, dove devo passare? E come mai? Quando? Certo, vi sento. Anche Andrea sento. Sta arrivando? No? Una, due, tre, prova. Ora, uno, due, se vi sento. Una, due, tre, prova, prova, prova, prova. Andrea, Andrea? Sì, Andrea. Tu mi senti? Andrea, Andrea? Ok, perché ma... perché ma... Diamo ma se la conosce. Arrivo. Luca, grazie. Attenzione Gio Maria. Gio Maria. Mari, tu sì. Sono io, come mi senti Gio Maria? Ciao Mari, buonasera. Ma poco fa non chi stavi parlando, ti sentivo parlare, però l'altro non lo sentivo. E c'ho dei ragazzini in zona che adesso stanno provando a fare quei giocatorini, capito? Infatti, sarà con chi sta parlando Marina. Arrivava solo il rumore e basta qua, ma non lo sentivo a lui, a te sì. Ero in zona, i ragazzini stavano provando dei giocattolini, mi hanno detto accenda, signor Mario, dunque stavo parlando tutto qua. Certo, dica che mi sta parlando da solo, signor Mario, non sono arrivato a quel punto. Ok, come sta arrivando? Forse sta arrivando, sì. Sì, adesso è arrivato abbastanza bene. E a fondo scala, va bene. Perché ho tutto spostato, ho tutto sistemato e così via. Già ti mando la foto sul WhatsApp, così vedi l'antenna che ho piazzato. Ok, Gio Maria, ti lascio, ci sentiamo più tardi, dai, che c'ho gente qua davanti. Ok, a più tardi, ciao Gio Maria. L'importante è messo a posto tutto, va. Comunque se è andato bene, perché è tranquillo. Ok, ma dov'è l'antenna? Sempre sulla... dove c'è la... l'antenna del baracchino? Ho spostato tutto, tutto al contrario ho fatto, dov'è la prima volta? L'ho sollevata di un metro e mezzo e sotto ci ho messo una pipetta e ci ho messo quella del PMR, capito? A me è tutto assieme, un unico palo e ci ho tutto assieme. E poi c'ho l'altra antenna, quella di Luca, che l'ho lasciata al suo posto, dove la prima, che mi va benissimo, capito? Quello che mi ha fatto Luca la prima volta, no, quello stilo, va troppo bene, la sto utilizzando per uno scanner, va troppo bene, avanti. Va benissimo adesso, vai, a voi, va benissimo, arrivo, come bene, abbastanza bene. E io come ci sei arrivato? Tu come al solito, tu sembri che sei sotto casa mia, figurati. Sempre benissimo, Giovanni. Ok, d'accordo, vai, dai, ci sentiamo dopo. Che sto terminando la questione, lavoro qua e non finisco, ah, ci sentiamo dopo. La cortesia, Giovanni, ma la 27 ce l'hai accesa per caso? Sì, è accesa. Okay, vai sul 23 e mi dà un controllo, attimino, che ancora non ho fatto una prova sul 23. Guarda, io sono già sul 23, dai, così mi dà un controllo, così chiudiamo dopo, dai. Io accendo, quando accendo questa accendo la 27, quando sono qua sono tutti due accesi, per cui... Parla pure, già acceso. Ok, io sono sul 23, mi dà un controllo, ma oggi vedo c'è un po' di scarica, ma vai sul 23, vai. Mi senti, cambio? Oh, pronto? Non so se mi senti a me, pronto? A te ti sento, però ho un problema con l'altro, lo sai. Perché? Il mic. Vabbè, ma io già non ho problemi. Questa è l'antenna grande, è la radio grande, non ho giocattoli io. E io lo so, non ho il mic che non va, capito? Vabbè. Ti avevo preso per Antonio. Sì, oh yeah. Questa qual è, quella grande? No, questa è la piccola, la grande è un fanno di mic. E Antonio, non lo sento Antonio, Anto. Non lo sento io Antonio, ti. Non lo so, forse non riesce a trovare la frequenza. Sì, basso, prova. Hai l'antenna collegata, ma non ci stai uscendo con radio, mi. La radio è bassa. No, è perché c'è l'antenna collegata. Ora Claudio ci vorrebbe sentire. Ciao, ti. Sì che ti sento, Anto, ti sento. Bene, ecco. Oh, con l'antenna tua, sì. Poi viene da tu che è collegata lì. Quello va bene, scusa, Ma che questa prima del tutto va bene, non è altissima, però... Io spegnete il PMR, dai! Spegnete il PMR, sì. No, arrivi Anto, non ci sono problemi. Arrivi. Segnale c'è anche la radio, dai. Apri molto bene anche lo squelch, non c'è problema. Bene, grazie Anto, tu sei un amore, tu sei inutile. Va bene, dai, ripassiamo là che abbiamo lasciato Gianni da solo. Ciao anche a Giulio, dai. Io altri 5 minuti e poi esco. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Tino. Ciao, sono nell'altro canale io. Ciao giù, passiamo là, aiuto. Qualcuno mi riceve sul canale? Prova. Vabbè, dai, devo uscire, dai. Ciao. Chisio. C'è nessuno? 1, 2, 3, prova. Ce ne sono in zona, sul canale 7, 1, 2, 3. C'è nessuno, ripeto, c'è nessuno, passo. Infatti. Attento Marino. Marino, mi senti? C'è qualche amico, no? Attento Marino. Sono Andrea, nessuno mi sente? Qua Andrea, mi riceve qualcuno, passo? Sa, prova, 1, 2, 3, qualcuno mi sente? Sono Andrea, qualcuno mi sente? Sono Andrea, ripeto, qualcuno mi sente? C'è nessuno? Nessuno mi sente? Sa, 1, 2, 3, prova, sono Andrea. C'è nessuno? Sa, 1, 2, 3, Andrea, qui è Andrea che parla. Mi sente qualcuno? Qua Andrea, 1, 2, 3, prova, mi sente qualcuno? Passo. Qui Andrea. Nessuno mi sente? Passo.